Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 24. Non so perché, ma sento molto. Ah, ecco, sentivo molto, come si dice, sodo, rimbombante nella cuffia. 800 24 24, buongiorno. Le elezioni provinciali confermano il trend, smentiscono il trend, non lo so. L'importante è rilevare il fatto che l'occhio ha voluto la sua parte. Scusate, sembra un'osservazione così qualunquistica e un po' greve, ma invece è vero. La Serracchiani batte Berlusconi nel Friuli Venezia Giuli ed è insomma un avvocato del lavoro, per carità, non voglio togliere niente al suo curriculum, eccetera, però è una bella faccia, giovane, molto diversa da quella del capolista, per esempio Luigi Berlinguer, che è una bella faccia, ma anziana, lanciata così, no? Andata di slancio nella lista perché ha fatto un exploit. È andato molto bene anche Sassoli, David Sassoli, anche lui per carità, un curriculum eccetera, le lauree eccetera, e poi era un militante cattolico, però diciamo era il bello del TG1. E molto bene è andato. Ma non parliamo poi, diciamo, del ciarpame senza pudore. Matera, no? Barbara Matera, grande risultato nel sud, sulla scia di Berlusconi. E lei anche ha un curriculum, delle lauree eccetera, però era stata a Chiambretti C'è eccetera, che non significa che, cioè, non è che si è sporcata la fedina penale andando in televisione, semplicemente ha fatto delle partecipazioni, delle comparsate. È andata molto bene la Ronzulli, anche Lucia Ronzulli, molto bene anche lei, insomma, voglio dire, così, insomma, si è molto polemizzato su questa storia di scegliere dei candidati che avessero anche degli attributi di freschezza, di gioventù, eccetera, eccetera, e gliel'hanno tirata tutta in testa a Papi. Secondo me hanno fatto male, insomma, hanno sbagliato, tant'è vero che i risultati mostrano che invece l'elettore ha gradito a destra e a sinistra. Detto questo, invece, province, io mi limito a leggere quello che scrive Repubblica, se no poi c'è il solito ascoltatore fazioso che mi telefona e dice: ah, Ferrara è fazioso, non è degno della radio della Confindustria. Dunque, province, il centrodestra, chiedo scusa, parlo con pardon, vince da nord a sud. Questo è scritto sul sito di Repubblica. Gloria, posso dirla questa? No, sei corretta, Polina. Bologna e Firenze al ballottaggio, che invece dovrà andare subito ai comunisti, come ovvio, dai comunisti al Partito Democratico. La cronaca, Lega e PDL strappano 15 province, fra cui Napoli al centro-sinistra, Milano e Torino al secondo turno, centrodestra conquisto e avanti nella maggioranza dei capoluoghi. Anche Città Rossa ci vorrà il secondo turno, Emiliano in vantaggio a Bari, eccetera, eccetera. Va bene, resta lo stop a Berlusconi di ieri, il vistoso calo, ma non troppo, di Franceschini di ieri per le europee. Oggi siamo un po' più concreti e niente, via. Questa onda lunga, alta, chiamatela come vi pare, diciamo che tende a punire, anche oltre le sue colpe, devo dire, il Partito Democratico, e che tende proprio a martellare sulla testa tutta la sinistra dispersa dei matti, Vendola, che dovrebbe affrettarsi a entrare nel Partito Democratico invece di stare lì a fare dei balletti da solo. Io ballo da solo, ma che balli da solo? Non ce l'hai il quorum. E anche Ferrero, e poi Pannella con quella stella gialla che me la sogno la notte, eccetera. Ecco, insomma, si diano un po' tutti una regolata. Linea a Deborah Rosciani per l'apertura della borsa. Buongiorno a tutti. Questa mattina l'Europa parte benino, tenta di recuperare quanto ha perso ieri. Ieri è stata una giornata abbastanza pesante per le borse europee, che comunque sul finale sono poi riuscite a chiudere sopra ai minimi che erano stati raggiunti nel corso della giornata e ad alimentare le preoccupazioni. Ricordiamo, ci sono stati i timori legati ad un nuovo fallimento in arrivo in Germania, quello del gruppo Arcandor. Allora, abbiamo un rialzo di un punto percentuale in media a Londra, Parigi e Francoforte, Milano un po' più indietro, rimane sul FTSE MIB più 0,85%, stamattina il peggior titolo, comincio dal basso, è Fiat meno 1,73% dopo lo stop da parte della Corte Suprema americana alla vendita a Fiat appunto di Chrysler. Ansaldo meno 0,5, questi sono gli unici due titoli negativi in questo momento a Milano, c'è un generale recupero che vede in particolar modo protagonista della seduta Lottomatica più 5,13%, STM più 3,85, più 3 anche per Impregilo, più 2,5% per Mondadori, Italcementi più 2, Buzzi Unicem più 2%. Torna a recuperare qualche posizione l'euro sul dollaro a 1,39,37. Per ora è tutto, buona giornata. Bene, molte grazie a Deborah Rosciani. Abbiamo in studio Elisa Calessi di Libero e Ritanna Armeni, collaboratrice del Riformista e dell'Altro. E abbiamo invece ai microfoni Laura Cesaretti del Giornale, Maria Teresa Meli del Corriere della Sera, Parterre de Roi. E la prima domanda che io sottoporrei è la seguente: la Repubblica dice che vince la destra, e però l'editoriale di Mauro si intitola La Crepa. La crepa è quella che ha incrinato il muro del massimo consenso berlusconiano. In effetti, l'asticella messa da Berlusconi piuttosto alta del 40 o 45% non è stata attinta, anzi col 35% si è molto distanti da quella asticella del successo. Però anche i risultati, parlo delle europee, anche i risultati nelle città e nelle province, sebbene sia ancora tutta da vedere a Milano, dove Penati, essendo un gran furbo e un politico professionale di razza, c'ha la possibilità di raccogliere un sacco di voti anche, diciamo, moderati, popolari, eccetera, perché non ha certo fatto lo snob Penati a Milano, alla provincia, insomma, ha parlato a volte come più di un leghista delle questioni che preoccupano il popolo milanese. Ma dico, però, nonostante ci siano ancora dei verdetti aperti, anche questa roba, allora dov'è la crepa? Vorrei capire dov'è la crepa. C'è la crepa, anch'io penso che ci sia oscuramente, ma forse non è dove pensa Mauro, forse è da un'altra parte, non lo so. Elisa Calessi. Io credo che ci sia stato un paradosso. Il più grande stratega della comunicazione, Berlusconi, questa volta ha sbagliato clamorosamente, io credo, la strategia comunicativa, nel senso che ha fissato, come ricordavi, direttore, questa asticella del 40% e del 45% per la somma PDL Lega. E dall'altra parte Franceschini, che notoriamente noi tutti non abbiamo mai considerato un genio della comunicazione, invece devo dire stavolta l'ha infilata giusta, nel senso che ha diciamo esasperato forse o realisticamente o per tattica i risultati negativi, quindi tutti noi ci aspettavamo disastri, scrivevamo che addirittura il PD poteva andare al 25%, quindi è chiaramente cos'è successo? Che il 26% è passato con un trionfo, un progresso, sì. Ecco, il 35 rotti del PDL come il grande arretramento. Ecco, bene, però adesso Laura Cesaretti, con questi risultati città per città, provincia per provincia, con questo evidente passaggio di tante province dalla sinistra alla destra, insomma il rovesciamento dei risultati del 2004, si determina un fatto naturalmente elettoralmente e politicamente nuovo. Le città e le province sono di per sé importanti perché si aggruma un potere, un sistema di consenso, eccetera. Naturalmente poi il voto va e viene. La cosa bella che si è realizzata in fondo in questi 20 anni, che noi stentiamo sempre a riconoscere, è che il potere cambia di mano, passa di mano. Questa è una bella cosa, un segno di vitalità, secondo me, di una democrazia. È vero che Berlusconi è sempre lì e molti vorrebbero liberarsi dal suo fantasma. È sempre lì, però è stato anche lui i suoi begli anni all'opposizione. Insomma, il potere passa di mano. Ora, Cesaretti, vorrei capire l'effetto politico generale, non quello specifico particolare a Bologna, a Milano, a Bari, nella provincia di Napoli, l'effetto politico generale di un voto che così chiaramente dà un colpo ancora forte al PD. Posso fare una premessa su Mauro? A voglia. Tu dicevi prima che domandavi dov'è la crepa che lui vede, una crepa, un'incrinatura sicuramente c'è, si è visto anche nelle preferenze che per Berlusconi, che erano al di sotto delle aspettative, al di sotto di altre performance. Il problema di Mauro però secondo me è che comunque, che la crepa ci fosse o non ci fosse, lui doveva rivendicarla essendone in qualche modo l'autore principale, no? Essendo era il graffitaro, diciamo, che ha aperto la crepa a forza di fare i disegnini sul muro, sì, è vero. il principale, diciamo, certo, vincitore, certo, di queste elezioni, se vogliamo dire così, dal punto di vista mediatico del fronte anti-berlusconiano. E l'effetto generale mi sembra quello di un... da ieri a oggi in realtà c'è stato anche un certo ribaltamento psicologico nei due schieramenti, no? Il risultato delle europee era stato vissuto come appunto una sconfitta di Berlusconi, che non aveva raggiunto l'obiettivo che si era prefisso, e ieri sera appariva chiaro che gli sconfitti sono nel centro-sinistra, perché certo partivano da condizioni molto forti, perché nel 2004 avevano stravinto in 50 province, mi pare, ieri sera gli sconfitti erano loro. Ma questo cosa comporterà? Per esempio, Franceschini rimane fino all'autunno, è ovvio, ma si candiderà oppure lascerà il passo a Bersani? Perché l'idea è sempre che poi c'è il zio D'Alema che risolve i problemi del PD. Non so se è ancora vero, se... perché lì ci sono vari problemi. Adesso io non dico, non voglio fare come Berlusconi, che ha detto a Enrico Letta se ne va, Francesco Rutelli se ne va. Lui la fa un po' semplice, magari dal suo punto di vista era conveniente dire questo, però certo il PD è, insomma, non so, forse potrei chiederlo all'Armeni questo, cioè, e questo PD, adesso dopo sta botta. Dunque, il PD in questo momento è nella, secondo me, nella confusione, perché poi parla tanto di congresso, ma il congresso che sa cosa sia esattamente non si sa, perché in realtà non c'è un congresso, ci sono delle primarie che, nel caso che i candidati, un candidato non superi il 50%, a un certo punto si trasforma in una discussione. Quindi il PD non lo sa. Però Giuliano, se tu mi permetti, io vorrei dire una cosa a proposito della tua prima domanda e della crepa, perché secondo me le elezioni ieri sono state molto molto chiarificatrici, cioè hanno chiarito che il centrodestra è forte, fortissimo, e ha vinto. E questo però ha messo in evidenza due cose che il giorno precedente erano rimaste un po' oscure. La prima è che quella del PD non era assolutamente una vittoria, ma era soltanto il fatto che, essendo andato dal 37 al 35 la PDL, e come ha detto Elisa Calessi prima, avendo loro giocato, diciamo così, una partita mediatica diversa, eccetera. La seconda però, e questo bisogna che ce lo diciamo, è che diventa chiaro che la sconfitta delle europee non è stata una sconfitta del centrodestra, che peraltro in tutta Europa è andato benissimo, ma è stata quella che forse Mauro chiama crepa e io chiamo invece ridimensionamento, di Silvio Berlusconi. Cioè, il problema è che nello schieramento di centrodestra è apparso che il suo leader, il suo capo... E da ieri che i miei ospiti di sinistra, io gli dico... No. Che cosa fa il PD che ha preso sta botta? E mi dicono, ah, ma no, Berlusconi. Il PD, ma è stato molto, questo è molto importante però, perché è evidente che la cosiddetta sconfitta del PD, di Berlusconi, ha nascosto la sconfitta del Partito Democratico. Oggi invece è tutto più chiaro, il centrodestra è fortissimo, solo che il suo leader ha subito uno smacco. Vedi, Simone dalla provincia di Lecco dice, sono due giorni che sente parlare di sconfitta, ma se Simone... Venga e mi aiuto. Sì. Difficile su questo, Simone, perché è vero. Venga e mi aiuto, taciti qui i commenti di sinistra, la prego Simone. Dici. Posso parlare? Sì. Certo. Io non è che sento parlare di sconfitta, vabbè, io non ho votato il Popolo della Libertà, ho votato una lista di, tra virgolette, di destra radicale, perché erano ancora presenti quelle liste lì, almeno per l'ultima volta. Però, cioè, se queste sono le sconfitte, cioè, va bene, mettiamoci la firma da qui a 100 anni. Se ogni sconfitta è così, va benissimo. Cioè, allora, il centrodestra ha conquistato una marea di amministrazioni che sono sempre state, o comunque che erano a sinistra. Senza neanche ancora il suo voto, che poi si aggiungerà. Senza neanche, che poi lo aggiungerò, perché beh, io ho votato Forza Nuova, la prossima volta non ci sarà più, perché bisognerà raccogliere le firme. È proprio facile. E voterò. Non voterò, ad esempio, cioè, se fosse avrei votato la Lega, ma non perché qua si sente sempre, no, la sconfitta di Berlusconi, la sconfitta di Berlusconi. Ad esempio, io non avrei votato il Popolo di Libertà, non per Berlusconi, ma perché è tutto un calderone, cioè c'è dentro anche Fini, e a me ad esempio non mi va la politica di Fini e dei Finiani. Anche ieri telefonavo compagno Cruzzanti, Fini, voleva dire compagno Fini, sì, va bene Simone, da Cruciani diceva così. E poi un'altra roba, no, si è iniziato, che dicono da Cruciani, che dicono, no, da Cruciani ieri ha telefonato uno e ha detto vabbè, io ho sempre votato Forza Italia, stavolta con i Fignani e la loro politica così, insomma, era un po' sul chi va là. E come lui ragionava. Va bene, Simone, io adesso devo ottenere una risposta, perché l'Armeni col cavolo che me l'ha data, alla domanda: visto che è andata piuttosto male nelle città e nelle province, mi dispiace, ripeto, anche oltre la misura delle sue responsabilità. Dimmi, la faccia alla Meli. Mi rispondi, allora. Chi avrà una paura, fa una parola buona. No, la Meli si dovrebbe avere una parola buona. Che cosa gli succede a sto Partito Democratico adesso che ha preso sta botta? Secondo me non succede nulla, nel senso che io penso che non faranno il congresso, penso che alla fine si guarderanno nelle palle degli occhi e tutti i vari vecchi ammennicoli di quel partito, Marini, D'Alema, accomoderanno, rimarrà Franceschini segretario e si tirerà a campare fino alle regionali. Non ci saranno, io non credo alle quelle cose sanamente democratiche tipo Bersani contro Franceschini al congresso, no, purtroppo non vedremo niente di tutto ciò, vedremo un accomodamento. Bersani è la terza volta che si candida e si ritira, non è possibile. Però poverino, siccome non ha, cioè non ha dalla sua la maggioranza del partito, dubito che D'Alema scenda in campo a suo favore per andare a sbattere il muso al congresso. Quindi, ma perché sbattere il muso? Bersani è un candidato molto debole. Perché Bersani è un candidato debole che da quando si è candidato ha via via perso la forza. Dalla sua parte ha soltanto, oltre diciamo l'enclave tosco-emiliana, ha soltanto Rosi Bindi, che per quanto sia stimabile persona, però dubito che riesca a farlo vincere. Non ha neanche tutti i dalemiani, quindi. Ma Rosi Bindi, scusi, perché sta con Bersani e non con Franceschini, che sarebbe un cattolico della sua stessa specie? Perché con Franceschini stanno quei cattolici che sono antagonisti della Bindi, come Franco Marini, Beppe Fioroni. Sono beghe i popolari. I popolari. Vabbè, e quindi è una prospettiva molto grigia, non so, Cesaretti cosa dice? Non so, mi sembra una prospettiva complicata, perché se veramente non succede niente si muore di noia nel PD, no? Sì, si muore di noia e peraltro si trovano in una situazione in cui è difficilissimo decidere che strada programmatica imboccare, perché anche la politica delle alleanze a questo punto diventa ancora più complicata di prima, mi pare, a occhio e croce, perché c'è un Di Pietro fortissimo, che però è difficilissimo mettere insieme a Casini, tant'è che i due dicono o me o l'altro. O Casini, che peraltro. Ma Casini pure sarebbe anche di bocca buona, insomma, diciamo, se lo prenderebbe Di Pietro, no? Un Savoia, un Di Pietro, sempre un'aristocrazia. No? Cioè, voglio dire, Casini non mi pare che sia quello il problema, secondo me, che proprio no, non... però il problema è che devi proporre una politica di alleanze, visto che il PD al 26% difficilmente può proporsi come partito di maggioranza e governare. Vabbè, però adesso scusate, teniamo conto del fatto che il 26% Calessi, non so, l'ha preso perché erano le europee, perché prende di più alle politiche il PD, no? Staremo a vedere perché la frana... Ma lì c'è la storia del voto utile, no? Ma io... Se tu vuoi battere Berlusconi voti il PD. Io credo che i dati allarmanti e che invece a mio parere difficilmente faranno rinviare un chiarimento che sia il congresso, secondo la me. La sua opinione è che invece il chiarimento ci sarà e ci secondo sarà me ci deve essere, basta vedere la frana delle regioni rosse, che c'è oggi su tutti i giornali, cioè quando anche i baluardi, i bottini storici di voti del Umbria, centro-sinistra cadono, il sorpasso del PDL nelle Marche, nell'Umbria, Bologna al ballottaggio, Firenze al ballottaggio e via così, quando in Emilia-Romagna la Lega al 10% e il PDL va sotto il 40%, cosa che non succedeva nella storia repubblicana, cioè è chiaro che c'è qualcosa che non funziona. Qui non è un problema, io credo, di elezioni europee. E non dimentichiamoci che Franceschini è un segretario eletto senza passare da un congresso, Veltroni fu un segretario eletto con primarie di fatto pilotate. Ora, prima o poi bisognerà pure andare a un confronto, grande confronto, dove, ci, che meraviglia. Dove speriamo, ci si conta. Speriamo, così abbiamo qualcosa di cui parlare. Bene, speriamo. 800 24 24 Ida da Torino, dalla mia Torino. Ida. Buongiorno. Buongiorno. No, il numero è sbagliato, 824-0024. Che ho detto? Che ho 2424. Ah, 8-0-0-24. Signor Ferrara. Ida, mi dica tutto. Senta, volevo dire tre cose. Allora, la prima è l'astensionismo. Sì. Io penso che, perché sono stati due giorni in Fausti, cioè sabato e domenica, che un po' tutti vanno fuori città. Secondo, perché appunto il signor Berlusconi, il nostro presidente, ha dato retta alle malelingue e purtroppo non ha seguito molto la sua politica, ecco, e ha dovuto parare i colpi di Franceschini, perché in fin dei conti è stato una lingua lunga, ecco, come si dice a Torino. E poi il fatto che ha tolto il G8 in Sardegna e dalla Sardegna, per cui è probabile che i sardi se la siano presa. Io sì. Penso a queste tre cose, il fatto dell'astensione e il fatto che qualcuno non ha votato per lui, ecco, proprio un po' per questa delusione. Bene, grazie Ida, grazie, Stefano dalla provincia. Grazie, dottor Ferrara, e spero grazie, di vederla carissima. Presto in televisione. Sì, sì, grazie. Stefano dalla provincia di Genova. Buongiorno, buongiorno. Allora, volevo dire una cosa. Le province, la sinistra ha detto che non le voleva, la destra ha detto che non ne voleva. Ne hanno fatto due nuove. Adesso gioiscono perché hanno vinto o hanno perso, si rammaricano perché hanno perso la provincia, ci prendono in giro, perché le province non le vuole nessuno e gioiscono per il fatto che hanno vinto o perso per quanto riguarda le... Questo è un'altra forma per la quale la gente si sta disamorando della politica. Lei dice che devono sparire. Nella mia esperienza, devo dire, di campagnolo in Toscana, la provincia però è una bella cosa in realtà. No, ma la provincia non deve sparire a livello politico. La politica non deve farire a livello politico, deve rimanere a livello amministrativo, voglio dire, come dipendenza della regione, ma non è una cosa politica, trovo. Secondaria cosa, oggi non so se lei ha letto La Stampa, ci sono 10 domande di Gramellini, che è un uomo... Sempre leggo La Stampa e Gramellini per primo, È una persona molto intelligente. Noi abbiamo, dopo 20 anni, ancora a discutere D'Alema, Fini, Berlusconi, Marini... E nel frattempo c'erano Clinton e c'era Blair che fanno tutt'altro mestiere. Cioè l'Italia ha bisogno di gente nuova, la Serracchiani a Friuli, una brava ragazza che ha detto delle cose intelligenti perché la gente l'ha sentita parlare. Sì, l'abbiamo avuto anche qui alla radio, non è per niente. Per esperienza. Cui voglio dire, c'è bisogno di rinnovamento, non ne possiamo più di Marini. Va bene. Fiorella da Bologna. Buongiorno. Buongiorno. Volevo fare questa riflessione che mi è venuto in mente questa mattina pensando al fatto che una serie di comuni e di province passano al PDL. Sì. Allora, questo passaggio cosa farà sì che la gestione nel rapporto Stato, cioè governo e province e comuni, sarà dello stesso, diciamo, colore. Esatto, colore. Colore politico. Ecco, questa considerazione del fatto che c'è un grande problema economico, meno tasse che entrano, sappiamo tutti com'è la situazione economica e secondo me riflette su quello che anche una forma di scontro che si potrebbe aprire all'interno tra i comuni, la provincia e il governo, perché lei dice c'è meno conflitto, c'è meno emulazione, insomma, no, potrebbe aprirsi, perché il fatto che io penso che le cose che ha dato il governo alla Sicilia, che ha dato a Roma, cioè a questo punto anche per una serie di comuni di province le pretenderanno. La Sicilia, grazie Fiorella, sì. Ma la Sicilia è veramente un bel problema. Sì. Perché la Sicilia, allora da tutto da una parte, no? In genere dalla parte di chi vince. Questa volta ha fatto una cosa strana, effettivamente. Ma come mai Berlusconi si è fatto? Berlusconi si è fatto sfuggire la Sicilia? Perché? Vabbè, lì c'è stato il problema della giunta scoppiata per aria. Ho capito, ma non è che può appendere il destino di un intero schieramento politico di maggioranza di governo a una discussione tra Micicchè, Lombardo. No, ma io non credo sia una vendetta politica nel senso di rapporti. Cuffaro. Cioè lì la questione era molto semplice. Non sono arrivati dei soldi, questo, i soldoni. Allora c'è roba questione. Vera. Cioè, siccome Lombardo su quello ha sempre puntato alle sue campagne elettorali, giustamente, essendo un leader locale. Da lì è nata, io credo, la crisi della giunta e il risultato che oggi vediamo, cioè 800.000 voti che mancano. Questo è il grande crollo. Se posso dire una cosa eretica, non so, Meli, c'è un po' lo zampino di Tremonti anche. Cioè, il fatto che i soldi non sono arrivati dipende da Tremonti, perché è lui che tiene, diciamo, i conti dello Stato. C'è la famosa storia dei fondi per il Meridione, no? Ogni tanto Tremonti dice: qui bisogna fare questo intervento anticrisi, eccetera, pigliamo dei. È così, Meli? Che dicono? Così dicono, anche la Zampina di Tremonti delle volte viene visto anche lì dove non c'è. Però ovviamente la politica economica di Tremonti è stata una politica penalizzante per il Meridione in genere e per la Sicilia in particolare, e questo ha pesato sul risultato del PDL, ha pesato perché appunto è venuto a mancare proprio il Sud, cioè insomma la Sicilia in special modo. La Calessi dice addirittura 800.000 voti. 800.000 voti, cioè il grosso, prima parlavamo dell'arretramento, se noi non vi annoio con numeri, ma l'arretramento non c'è, cioè la somma di PDL e Lega tra le politiche del 2008 e il risultato di ieri è invariata, 45%. Perde il PDL 2 punti percentuali, ma questi 2 punti, un punto è la Sicilia, Sicilia e Sardegna, quindi il Sardegna grosso per il G8, Sardegna per il G8 e la Sicilia per i motivi che stavamo dicendo adesso. Armeni. No, io non se, per quanto riguarda Tremonti, io credo che naturalmente non sia stata una cattiveria del ministro economico, è stato il fatto che non ci sono i soldi. E quindi voglio dire, non è che dobbiamo vedere sempre dei retroscena dove non ci sono, su questo non c'è dubbio. Quanto alle cifre che diceva Calessi, è vero, ma infatti il punto vero è che i voti non sono andati, lo ripeto adesso, Giuliano dirà che io sono monomaniaca, il problema monomaniaca è che i voti anche prima di sentire e che i voti sono andati appunto alla Lega o sono andati all'astensione invece che andare al Popolo delle Libertà, e questo indica la famosa inclinatura. Berlusconi che tende a volte al gioco dello scaricabarile, ha detto: è tutta colpa dei siciliani che hanno litigato, è tutta colpa di mia moglie che ha divorziato. E non mi ricordo di Cacà che se n'è andato perché gli danno non so quanti miliardi. Però secondo me Giuliano non è escluso che se la prenda adesso anche invece con quelli più vicini a lui, cioè con i suoi coordinatori. Sì, poi ha detto: ho fatto tutto da solo, che è una frase semanticamente uno che non è laureato come me può dire una frase molto raffinata, semanticamente ambigua. Fa tutto da solo può voler dire che mi hanno lasciato solo e ho combattuto a mani nude nel più spietato isolamento, oppure può voler anche dire, io gli darei un po' più questa interpretazione, ho fatto tutto da solo, cioè mi sono messo l'asticella e me la sono smentita col risultato. Ho litigato con mia moglie. In questo caso ci sarebbe un accenno. Ha fatto un po' tutto da solo, veramente. In questo caso ci sarebbe un accenno di autocritica che, conoscendo male, ma insomma un pochino l'uomo, sarebbe una novità. Sì, non si è evidente, però la prego. Continuiamo a monumentalizzare Berlusconi. Assolutamente. Abbiamo bisogno di marmo, di monumenti equestri e di grandi miti. Voto cattolico, Cesaretti. Ora, qui, dai calcoli che fa Calessi, che è l'unica di noi che ha fatto i compiti, perché c'è un quadernetto pieno di numeri, dai calcoli che fa Calessi, qui è mancato il voto delle isole, non il voto cattolico, perché... Sì, volevo... Cesaretti, lei che è laica, che è stata radicale... Non sono esperta di voto cattolico. Non è esperta di voto cattolico, va bene, allora... Sulla questione dei fondi FAS, ma lo leggevo stamattina, io non sono un'esperta di queste cose, non è stato tanto Tremonti, pare, il colpevole, quanto addirittura Fitto, che è il ministro per il Mezzogiorno, che si è rifiutato di dare soldi alla Puglia, dove diceva li avrebbe gestiti Vendola, e quindi non sono arrivati i soldi neanche alla Sicilia, che peraltro è gestita da Lombardo, che in questo momento non è in ottimi rapporti col PDL, e i soldi non sono arrivati per questi, spiegavano alcune analisi oggi. E quanto al voto cattolico, non so, sì, leggo anch'io analisi che dicono che anche in Vaticano c'è stata una sorta di appello sotterraneo a punire Berlusconi per alcune... Ma non si vede questa fuga, perché le isole, o le isole o i cattolici... magari c'erano molti cattolici poi... nelle isole. Sono molti concentrati. No, secondo quanto me il voto cattolico... No, voglio dire soltanto che il voto cattolico... È molto difficile dire il voto cattolico così, no? È l'unica cosa che si può fare è constatare che, per esempio, l'Osservatore Romano, dopo il congresso della PDL, del PDL che ci fu l'apoteosi, eccetera, disse: quel partito lì rappresenta i nostri valori. Indubbiamente oggi i cattolici hanno un qualche problema rispetto ai valori, che parola complicata, che sono venuti fuori in questi ultimi due mesi. Nello stile di vita, vabbè, ma i cattolici quindi, perdonano, quindi ecco, quindi perdonano, può darsi perdonano. Che perdoneranno sì, in futuro. Adesso secondo me un qualche problema ce l'hanno avuto, se si è venuto fuori nel voto è difficilmente dimostrabile. Meli, Maria Teresa Meli, metta una buona parola sui cattolici sulle conseguenze politiche. Abbiamo prima parlato a lungo le conseguenze politiche per il PD, le conseguenze politiche per il PDL. Allora, c'è Fini da una parte che gioca sui tempi medi, medio-lunghi, non dà l'aria di volere approfittare di questa situazione, che d'altra parte non è poi una situazione così grave, così drammatica, come abbiamo visto dall'1-2 delle europee e poi delle provinciali e comunali. Però c'è questo. Poi c'è diciamo, i tre coordinatori, La Russa, detto anche da Travaglio oggi La Rissa, e poi c'è, perché ogni tanto La Russa fa delle cose indemoniate, e poi c'è Bondi e Verdini, non so che succede, saranno di nuovo bombardamenti del quartier generale, Predellini, che succede secondo lei nel PDL? Beh, io immagino sì, Predellini o cose simili, perché alla fine toccherà, cioè sarà uno schema non diverso dal solito, che toccherà Berlusconi, che si è, diciamo, si è fissato l'asticella, non l'ha presa, dopodiché toccherà a lui riprendere in mano la situazione. Brambilla, commissario unico di Forza Italia, dire questa cosa faccio saltare tutti sulla sedia. Brambilla, ministro e commissario politico del PDL, vabbè, nella veste di ventriloquo, immagino. Comunque penso che farà Berlusconi. La buona parola con l'Armenici, diciamo, quando parla l'Armenici è una buona parola per tutti. Sì. Lei se le sta segnando. Io me a Mennicoli, poverino, in minoranza, tutte adesso, però vediamo per vabbè, Berlusconi. Insomma, secondo lei ci sarà o no questa? Beh, toccherà Berlusconi. In questa fase mi sembra poco lucido, molto appannato Berlusconi. Ecco, anche questo. Bene, abbiamo sistemato anche Berlusconi, ottimo. Bene, giudizi sulle persone, che sono sempre una cosa interessante, in radio, in televisione, in letteratura, in politica. Dunque, Penati, io sono innamorato di Penati perché mi sembra una persona solida e un progressista, un uomo di sinistra che a Milano, che è il cuore della grande, diciamo, reazione berlusconiana, ha tutte le illusioni del progressismo, egualitarismo, spirito di accoglienza oltre i limiti del senso comune, ha cercato di dare una risposta decente, a mio giudizio, ma so che questo giudizio non è condiviso da tutti. Armeni, Penati meriterebbe di vincere o no? No, non meriterebbe di vincere, perché Penati ha inseguito la Lega in modo spregiudicato, secondo me. A me mi ha molto colpito una sua dichiarazione ai giornali, dopo che Berlusconi ha detto che a Milano c'erano troppi negri o una cosa del genere. Insomma, no, ha detto che era africana. Sì, sì, era africana, mentre il Cardinal Tettamanzi ha detto, qui con queste parole si semina odio, Penati ha detto è colpa della Moratti se la prenda con lei, che francamente mi sembra una risposta, ecco, però che dà la dimensione dell'uomo, cioè l'iperpoliticismo e poi il fatto che la cosa... Va bene, ma voi a forza di dire le cose che dite siete al 3%, vabbè, però, almeno no, Penati al 47%. Io non mi sono presentata alle elezioni. Sì, ma dico Penati comunque non mi piace. Ma questo l'ho capito. Posso, molto bene. Una parola è una cattiva, gara con la Meli. Oltre ai cose sentiamo la Meli. Io dirò una parola buona su Penati. Oh. Così invertiamo le parti. E su Renzi? Renzi è uno strano personaggio. Il mio amico Jeff Israeli, che è il corrispondente di Time per l'Europa da Parigi e che a volte, diciamo, alza il gomito, ha detto che è l'Obama italiano, Renzi. Ora, per essere l'Obama italiano ha preso già una bella scoppola, perché è stato sentito una parola troppo buona. Questa. Però è un ragazzino, spesso va sopra le righe, eccetera. Insomma, però ce l'ha messa tutta, non è male. Non so, a me non dispiace. Io non ho capito che animale sia Renzi, sinceramente. È un non democristiano, un cattolico luteriano. Sì, no, cattolico, sì, un cattolico abbastanza furbetto e... Però... La Fossati mi fa le smorfie in regia. Non le piace. Però sì, perché non piace a molti, soprattutto nel centro-sinistra. Lo so, non piace molto il centro-sinistra, però stiano attenti perché sennò arriva Galli, il portiere della Fiorentina sponsorizzato da Verdini. Ma no, io penso che alla fine la sinistra che non ha votato Renzi, perché in realtà è stata là la sinistra e il centro-sinistra a non votarlo, alla fine darà i suoi voti a Renzi quando si tratterà del duello con Galli. Il famoso male minore. Esatto. È emerso qualcuno, secondo voi, in queste elezioni? Beh, la Serracchiani. Sicuramente. Perché è emersa così? Perché ha preso un sacco di voti? Perché è una donna giovane che ha parlato chiaro, che ha una sua spontaneità, una sua, e che poi ha questa cosa. Tu hai detto che è carina, ma anche preparata, e poi c'ha anche una sua, un suo, come dire, percorso politico. Non no, è che nasce dal detto. No, l'hai detto, cioè non è che nasce dal nulla. Quindi siete unisce voi che molte negate qualità. Il percorso politico alle nostre veline, non noi che neghiamo alle vostre. Allora, non so, per mi pare che ci siano problemi invece per Chiamparino a Torino. A Torino c'è un sindaco, anche lui un po' come Penat, insomma, di quelli che cerca di... Perché è un grande problema politico dell'Italia di oggi, no? Questo Nord che si sottrae ormai a qualunque vero dialogo fattivo, insomma, con la sinistra, e si butta dovunque. Adesso tutta la competizione nella maggioranza, lo osserva Angelo Panebianco oggi sul Corriere della Sera, che è naturalmente pericoloso. Perché il Nord, insomma, o è Lega o è PDL, o è PDL o è Lega. Allora, Chiamparino a Torino è uno che cerca di mettere riparo Calessi, però gli è andata male. Gli è andata male, adesso non si è votato a Torino nel comune, sì. C'è stato un calo di voti sicuramente a Torino città, ma io credo che sia un problema di tutto il Nord. Chiamparino paga il fatto che diciamo appartiene a quella parte riformista del Partito Democratico, che in questo momento è in totale minoranza, perché la linea di Franceschini è un'altra, cioè Franceschini ha cercato di consolidare l'orticello dei voti più classicamente ideologici, anti-berlusconiani, quindi è chiaro che viene penalizzata tutta la linea di chi invece ha un'idea più riformista di questo partito. Detto questo, io vorrei notare che chi resiste in questa slavina del centro-sinistra sono personaggi, penso a Zanonato a Padova, Emiliano a Bari. Certo, vanno tutti al ballottaggio, però resistono, diciamo, in questa slavina generale Penati, persone che in qualche modo hanno preso le distanze un po' dalla linea dei Franceschini, spesso sono stati anche critici, penso a Emiliano, a Renzi, a Penati stesso, critici nei confronti delle scelte. Beh, Renzi dei vertici ha chiamato democratici. Franceschini il vice disastro. Appunto, sì. Quindi qualche riflessione sì, è vero, forse è vero, andrebbe è vero. Fatta. Le la stessa Serracchiani, è emersa. Beh, è perché ha fatto un intervento totalmente contro Franceschini, D'Alema, Veltroni e tutti quanti. Ci sono le persone, emergono le persone che escono un po' dagli schemi, a modo loro, ma tutti escono dagli schemi. Renzi esce in un certo modo dagli schemi, Emiliano è sempre stato un sindaco molto sui generis, diciamo. Sì, sì, Emiliano non ha partecipato quando c'è stato il lancio delle candidature dei sindaci, lui non c'era, come non c'era Renzi, come non c'era... Cesaretti, questa osservazione di Calessi è giusta. Cioè, poi nel PD, insomma, gli emergenti, quelli che resistono, quelli che si battono, eccetera, sono un po' quelli eccentrici rispetto alla linea generale impostata da Franceschini. Lei condivide questo giudizio? Beh, sì, è un po' la sindrome Moretti per certi versi. Cioè, la Serracchiani la incarna bene, è quella che ha fatto un discorso anti-gruppo, anti-establishment, diciamo, del PD. E soprattutto chiedendo una maggiore chiarezza di linea, delle scelte più definite, eccetera, e ha avuto questo successo che, lì è stato anche bravo Franceschini, devo dire, a assorbirla in qualche modo, perché lui immediatamente l'ha candidata come fra i capolista, insomma. Quindi... Chiudiamo con una telefonata, grazie Cesaretti. Giovanni dalla provincia di Salerno, prego. Buongiorno direttore. Saluto con particolare piacere da lettore e soprattutto da promotore sconfitto della lista pazza. Vengo ai grazie fatti. Caro, grazie caro. Prego. Io mi sorprendo, ma fino a un certo punto, che nessuno a sinistra stia parlando seriamente del caso Di Pietro. Perché Di Pietro, secondo me, è proprio la esemplificazione di cosa voglia dire l'anti-berlusconismo tout court. Cioè, voglio dire, se Bertroni, prima dell'avvento di Franceschini, invece di occuparsi dei festival, dei libri sull'Africa, eccetera, avesse avuto il coraggio di andare fino in fondo da solo, probabilmente Di Pietro non avrebbe avuto l'esposizione mediatica che ha avuto. E no, non sarebbe entrato in Parlamento, probabilmente, no? E quindi, però, ci si astiene ancora tuttora scientificamente dal parlarne, forse per non urtarlo a questo punto, visto che è diventato, per così dire... No, gli hanno reso omaggio, vengono a patti con Di Pietro, non c'è niente da fare, una componente ormai... Appunto per quello, allora voglio dire, in campagna elettorale non hanno fatto una proposta seria. Dopo la campagna elettorale ci dicono che la destra è stata sconfitta perché ha vinto meno fortemente di quanto si supponesse e che loro hanno vinto perché sono stati sconfitti meno pesantemente di quanto si supponesse. Questo fa parte della normale dialettica. Però il caso di Pietro, il problema di Pietro effettivamente è notevole perché obiettivamente insomma è in conflitto la sua figura, la sua storia, il suo modo di ragionare, senza volerlo demonizzare, insomma l'ho fatto abbastanza tanti anni fa, non sono uno di quelli ostinati che persiste, però certo è incompatibile. È compatibile, Armeni? Con il PD? E lui proverà non solo ad essere nel futuro compatibile, ma proverà a succhiarlo. Credo che succhiarlo. Sì. Secondo me ha un atteggiamento proprio, se posso dire sempre una parola buona, da sanguisuga. Si attende ad essere una sanguisuga. Bene, è stata la mattinata delle parole buone. Ringrazio Elisa Calessi, Ritano Armeni, Laura Cesaretti e Maria Teresa Meli. E Franca Fossati, Gloria Guerrero in redazione, Alessandro Chiappini e Peter Bescapè in regia, Linea al GR, poi Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. A domani, baci.